Tinay da tinay no, hoppa tinay no, tinay da tinay no, tinay ni ni tinay no, tinay da tinay no.